Savonarola, il frate che sconquassò Firenze. Prose scelte. Un programma in collaborazione con Davide Angiorgio e Radio Big World. Savonarola, prose scritte nel 1850 da Pasquale Villari e rispolverate oggi per essere lette in fiorentino moderno, ma anche un po' ignorante, da me che sono sì un fiorentino moderno, ma anche molto ignorante. Capitolo 2. Ersistolone. Sin dalla morte di Pio II, 1464, era cominciata quella scandalosa corruzione dei papi che in Alessandro VI doveva raggiungere il suo apice. La malafede e la smisurata avarizia di Paolo II divennero ben presto note in tutto il mondo e quando Francesco della Rovere gli successe, 1471 col nome di Sisto IV, si previdero alla Chiesa degli anni ancora più tristi. Assicuravasi pubblicamente che l'elezione del nuovo papa era stata simoniaca. Si ripetevano per tutta Roma i nomi di coloro che avevano venduto i loro voti e gli impieghi che ne avevano ricevuto. La scandalosa libidine di Sisto non riconosceva poi limite di sorte alcuna. La sua prodigalità nello spendere era uguagliata solamente dalla sete inestinguibile di oro. Le passioni lo accecavano così fieramente che per raggiungere i suoi disonesti fini non retrocedeva innanzi ad alcuna disonestà di mezzi e non v'era scandalo che non fosse stato per commettere. Si vide quasi in un istante sparire il tesoro con infinita avidità raccolto da Paolo II e ben presto il lusso sfolgorante dei nipoti di Sisto fece comprendere in quale mani fosse stato versato. Essi erano quattro, uno di loro fu fatto prefetto di Roma, un altro cardinale che fu poi Papa Giulio II, un terzo comprò per 40.000 ducati d'oro la città d'Imola e sposò la figlia di Galeazzo Sforza, ma di tutti il più scandaloso e più prediletto era Pietro Riario. La preferenza del Papa per questo giovane di 26 anni fu tale che fece correre per Roma mille scandalose dicerie. Da semplice frate fu levato alle dignità di cardinale prelato col titolo di San Sisto, patriarca di Costantinopoli e arcivescovo di Firenze. Egli ebbe pienissima autorità nella corte e quando vi andava le vie non bastavano alla folla che lo accompagnava. Le sue udienze erano più frequentate di quelle del pontefice stesso. Il suo fasto, dice uno scrittore contemporaneo, avanzava tutto ciò che i nostri padri seppero mai fare, tutto ciò che i nostri nipoti potranno mai immaginare. Nel ricevere gli ambasciatori di Francia dette loro un pranzo in cui si usarono quasi tutte le arti conosciute a quel tempo. Fu messo sopra il paese per ricercare tutto ciò che v'era di più raro e pregiato. Fu fatto ogni sforzo perché la posterità non potesse produrre nulla di simile e le descrizioni in versi di una tal festa corsero non solamente per le città d'Italia, ma andate oltre le Alpi si sparsero in tutta l'Europa. Quando Eleonora d'Aragona, figlia del re di Napoli, andando sposa al duca di Ferrara, si fermò a Roma, 1473, il lusso passò ogni confine. Cardinali ed ambasciatori ricevettero la sposa e la menarono al papa per vie ricoperte di veli e d'arazzi. Di poi la condussero in un palazzo, fatto costruire a bella posta dal giovane Riario accanto alla sua casa. Le mura erano di bellissimi legni, l'interno splendeva di seta e d'oro, i piatti, i bicchieri, ogni specie di vasellame era d'oro o d'argento. Così il cardinal Riario aveva in meno di un anno speso la somma di 200.000 fiorini e malgrado i molti e ricchissimi impieghi aveva già 60.000 fiorini di debito. Non perciò moderava i suoi eccessi, ma invece quell'anno medesimo partiva per Milano, dove entrava in gara di lusso col duca Galeazzo, uno dei principi più dissoluti in Italia. Di poi andossene a Venezia ed ivi si abbandonò così perdutamente alle lascivie che finalmente le forze vennero meno alla mala volontà. E tornato a Roma cessò di vivere il giorno 5 gennaio 1474. In questo modo ebbe origine quello scandalo e quella piaga profonda del papato che fu conosciuta nella storia col nome di nepotismo. E Sisto IV continuò a vivere sempre nello stesso modo sino al 1484, anno ultimo del suo pontificato. In verità, sebbene quella età fosse corrottissima, v'era pure un generale sconforto nel vedere così desolata la Chiesa. Il mondo aborriva gli scandali dei quattro nipoti del papa e quelli di lui, che pieno d'avarizia e libidine, si dava ciecamente in preda a tutte le passioni. Chi poi dalla Chiesa si fosse volto a guardare il resto delle cose d'Italia ne avrebbe ricevuto non minore sconforto. Erano tempi veramente infelici. Non solo si lamentava la libertà già da lungo tempo perduta, ma in quei medesimi signorotti che tiranneggiavano non si vedevano più quelle doti di energia e d'accortezza politica che erano state nei loro padri ammirate. Spenti quei forti desideri, quelle ardenti e smisurate ambizioni, pareva che per tutto contemporaneamente decadesse la razza dei principi. Nel regno di Napoli ad Alfonso il Magnanimo era successo 1458 Ferdinando I d'Aragona, che ben si avrebbe meritato il nome di crudele. Egli non seppe spegnere i suoi nemici altrimenti che con l'astuzia, la simulazione e i tradimenti. Avaro poi e meschino in maniera che negoziava sopra gli averi e le proprietà dei suoi sudditi stessi. In Firenze, alla corte d'intelligente Cosimo dei Medici, era successo 1465 l'incapacissimo Piero, che in pochi anni di governo seppe mettere la supremazia della sua casa in tale pericolo che se la morte fosse venuta più tardi, suo figlio Lorenzo non avrebbe potuto prendere in mano le redini dello Stato. In Milano, al valoroso condottiero, all'astuto politico Francesco Sforza, era successo 1466 il debole Galeazzo, ed in Venezia, finalmente, all'abile ed ambiziosa politica di Francesco Foscari, era seguita quella di Pasquale Malipiero, 1457, le imprese più notevoli del cui dogato furono le feste che dette in piazza San Marco. Questo peggioramento così universale sembrava quasi fatale e misterioso, ma egli era che i padri di coloro che regnavano allora s'erano impadroniti degli stati attraverso mille pericoli, rimuovendo ostacoli d'ogni sorta, combattendo un numero infinito di nemici, mentre i loro figli, nati nella pace, cresciuti fra i cortigiani, s'erano educati alla mollezza. Eppure, quasi tutti questi mali non fossero bastevoli ad affliggere l'Italia, se ne aggiungevano molti altri non meno gravi. Pareva che questa mollezza dei principi facesse risentire i popoli, fra i quali si trovava ancora un pugno d'uomini che, scontenti di quel nuovo stato di cose, erano pronti di mettersi ad ogni cimento, di tentare ogni impresa più disperata. Quegli anni, infatti, pareva fossero divenuti gli anni delle congiure. Nel 1476 ne seguirono tre. Girolamo Gentile tentò di sottrarre Genova al giogo milanese. L'Olgiati, il Visconti e il Lampugnani pugnalarono in chiesa il duca Galeazzo e furono poi a furore di popolo ammazzati per le vie di Milano. A Ferrara Niccolò d'Este con 600 uomini ritentava la fortuna delle armi ed insieme con la più parte dei suoi vi perdeva la vita. Così queste congiure risultavano sempre a danno di chi le tentava, né facevano altro che peggiorare la condizione dei popoli, rendere la tirata annide sempre più ferma e più crudele. Non di meno la gravità del pericolo, invece di spaventare, pareva che eccitasse gli animi a fatti sempre più disperati, ed ogni anno se ne udivano dei nuovi. Niuna delle congiure, però, fu terribile quanto quella avvenuta a Firenze l'anno 1478, il giorno 26 aprile, quando nella cattedrale, mentre che si celebrava la messa, nel momento stesso in cui si levava l'ostia consacrata, i pazzi pugnalarono Giuliano dei Medici e fallirono il colpo dato a Lorenzo, che ha avuto tempo di sguainare la spada, poté, difendendosi, ricoverare e salvarsi nella sagrestia. Angelo Poliziano, che fu subito pronto a chiuderne la porta, racconta che il disordine e le grida di quel momento furono tali che parve il tempio intero ne rovinasse. Certamente in questa congiura ogni cosa era fuori dell'ordinario, l'accortezza e l'ardire con cui l'avevano tramata, il momento scelto per menarla ad effetto, la nobiltà delle famiglie che vi avevano preso parte, le vittime che allora e per molto tempo di poi ne seguirono. Ma ciò che più di tutto faceva meraviglia era il numero e la qualità degli ecclesiastici che vi erano mescolati. Ad un prete era stato affidato il pugnale che doveva ferire Lorenzo dei Medici. Il cardinal Salviati era stato il centro principale dei congiurati a Firenze e a Roma. Il più caldo ed instancabile istigatore ne era stato il santo padre medesimo Sisto IV. Egli aveva sperato con questi modi crescere stato ai suoi nipoti, onde non poter resistere allo sdegno di veder fallita la congiura, e posto da banda ogni rispetto, divenne nemico dichiarato e mosse guerra aperta ai fiorentini. Nell'anno 1482 una guerra addensavasi d'ogni intorno sopra Ferrara, onde il superiore dei Domenicani mandava altrove buona parte dei suoi frati, ed il Savonarola dovette volgere i passi a Firenze, dando così l'ultimo addio ai parenti, agli amici e alla sua patria che vedeva per l'ultima volta. Questa guerra, mossa da principio contro il solo duca di Ferrara, s'era a poco sparsa per ogni dove e aveva diviso in due fazioni quasi tutta l'Italia. Le cagioni vere che la muovevano erano da una parte la nuova ambizione dei veneziani che si volevano stendere sulla terraferma, da un'altra lo smodato desiderio che aveva il Papa d'accrescere stato ai nipoti. Queste cagioni però si tenevano celate ed il Papa adducea a volersi vendicare contro il duca per essersi egli condotto al soldo dei fiorentini nella guerra che questi avevano dovuto sostenere contro di lui dopo la mal riuscita congiura dei pazzi. I veneziani pigliavano occasione da certe contestazioni di confini e dalle loro eterne questioni per il commercio del sale. Il duca di Ferrara si offerì pronto a cedere in tutto, ma non gli valse a nulla. Quei due potentati erano ormai decisi alla guerra e si tiravano dietro la Repubblica di Genova ed un gran numero di quei signorotti che dominavano nelle Marche e nelle Romagne. Pigliavano da un altro lato le parti del duca, la Repubblica Fiorentina, il re di Napoli e il duca di Milano, a cui si univano il Marchese di Mantova, il Bentivoglio signore di Bologna e la potente casa dei Colonna. L'Italia si trovava tutta sulle armi e non v'era che la Repubblica Fiorentina la quale pigliasse parte a queste contese solamente in parole. Nel resto s'era già cominciato a guerreggiare. Il duca di Calabria veniva alle mani coi pontifici, comandati da Roberto Malatesta. I Colonna, usciti dai loro feudi, devastavano la campagna romana e i genovesi attaccavano il confine occidentale del Ducato di Milano. Ma il nodo principale della guerra era nelle mani dei veneziani. Essi stringevano fortemente Ferrara con due eserciti, mentre un terzo portava la guerra al duca di Milano, e spingevano le cose in modo che già la fame opprimeva la città di Ferrara e la sua resistenza non poteva andare più in lungo. Si vedeva chiarissimo che fra poco il premio di tutta la guerra sarebbe caduto nelle mani dei veneziani. Non appena Sisto IV s'avvide come la preda tanto desiderata fosse per fuggirgli di mano, che quasi cieco per la rabbia voltò bandiera e fece un trattato col re di Napoli, concesse al duca di Calabria il passaggio per i suoi stati, scomunicò i veneziani chiamandoli nemici di Cristo, invitò tutti i potentati d'Italia a portar loro la guerra. Questo subito mutamento poteva sorprendere solo quelli che non conoscevano qual fosse la furiosa natura di Sisto e ove lo conducesse la sete dell'oro e degli stati. I veneziani non si lasciarono, è vero, spaventare dal Papa, ma la sua defezione aveva mutato tutte le condizioni della guerra. Il duca di Calabria aveva già col suo esercito approvvigionato Ferrara e veniva a disturbare i lavori d'assedio. Le cose dovevano perciò di nuovo procedere in lungo. I due eserciti si posero l'uno accanto all'altro senza che si venisse ad alcun fatto risoluto di armi. Le campagne erano ogni giorno devastate, moltissimi morivano di fame e niuno di ferro. Con questa incredibile fiacchezza procederono le cose sino all'anno 1484, quando ognuno si trovò stanco di una guerra egualmente dannosa a tutti. Allora il generale dei veneziani accettò le proposte di un trattato di pace. Gli eserciti da ogni banda si ritirarono ed in un punto cessò tutta la guerra con soddisfazione generale. Il Papa solamente non aveva mai lasciato di soffiare nel fuoco da lui acceso. Troppo gli era crudele il pensiero di perdere le speranze concepite nella guerra. Onde, quando il 12 agosto vennero presentati gli ambasciatori e che gli lessero le condizioni della pace, egli, tutto pieno di furore, levatosi in piedi, gridò: «Voi mi annunziate una pace di onta e di vergogna!» Il giorno seguente la gotta, di cui già da lungo tempo soffriva, gli andò al petto ed il Santo Padre moriva per il dolore della pace conclusa.